vedi anche di me in lei. Butta via questa vita mia, ma senza te cos'altro c'è? Puoi non amarmi, ma torna insieme a me. Ti aspetterò finché vivrò. Ma perché questo cuore non si arrende? Fatto già.